sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 e 11 minuti, un po' di ritardo, ben ritrovati, buona serata in questo martedì 2 agosto 2011, chi vi parla è Sergio Bortolami, l'appuntamento è quello che noi chiamiamo Blu Radio Sera, dall'altra parte del vetro c'è Maurizio Calzavara, anche questa sera Blu Radio Veneto vi propone un ospite musicale. Maurizio, passo a te la parola. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, noi non andiamo mai in vacanza e continuiamo anche ad agosto, chiaramente. E io sono molto contento e felice perché Mattia Pattaro, come si dice? Pattaro o Pattaro? È Pattaro. Pattaro, perfetto. Però in realtà, tra l'altro, è un cognome che ha origine padovana. Ah, perfetto. Ma non lo sapevo. Ma io ti chiamo Colore, che è meglio, secondo me, perché il tuo pseudonimo artistico è questo. Sei stato così gentile da venire anche in agosto a presentare il tuo disco, praticamente. Siete stati voi gentili ad invitarmi. Colore è un pseudonimo di un artista veronese che ha cominciato a suonare, a cantare, a sviluppare musica un po' di anni fa, però con una band, vero Mattia? Sì, io e te ho passato una piacevole serata in vostra compagnia, ricordo. Un po' di anni fa, vero? Sì, nel 2006 abbiamo presentato Dalla mia camera, l'album d'esordio dei Dioniso. I Dioniso hanno fatto molto positivamente rumore, nel senso della musica pop. Non solo Veneto, poi si è allargato il discorso. Come mai secondo te? Ma in realtà poi da quel giorno che poi non ci siamo più visti, ne abbiamo fatte di cose con i Dioniso. Abbiamo vinto diversi festival nazionali, Isernia, il premio canzone italiana d'autore, il Cornetto, che ci ha dato la possibilità di aprire a Zucchero. Certo, che non è una cosa da poco, assolutamente. A Treviso, tra l'altro, dalle vostre parti. Poi che abbiamo fatto? Poi ti ripeto, altri festival, ho aperto alle Vibrazioni, Poggi Pollini. Ma tantissima gente l'avete aperto come band di supporto. Sì, poi alla Formula 3. Formula 3. Ricordo che è stato bello. E poi altri che ora non mi vengono in mente. E sì, in realtà abbiamo fatto tutto da soli con i Dionisi, io sono molto orgoglioso dei Dionisi. I pezzi scritti di te e tuo fratello praticamente. Sì. Abbiamo fatto molte cose, dei video in TV, ma tutto homemade, tutto fatto in casa con cura. Ma in realtà è quello che sto facendo tuttora. Sì, in una tua intervista, cioè come presupposto al disco Velluto si chiama. Sì, è fatto tutto da te praticamente. Sì, era un po' di tempo che volevo seguire anche la produzione artistica. Perché... Come mai ti sei allontanato dalla band e hai deciso? Ma in realtà... Guarda, in realtà sembra, però in realtà non è così, perché in realtà molti dei Dioniso sono attualmente nella band di Colore. Ah, perfetto, quindi è cambiato solamente l'impostazione. No, è cambiata anche la band. Allora ti dico, dei Dioniso è rimasto il mio caro fratello Ricky, è rimasto il mio caro pianista e amico Tommaso Franco, e abbiamo cambiato il basso e la batteria. Ah, solamente. Abbiamo cambiato, ma poi in realtà i Dioniso... Detto proprio sinceramente, che forse non ho nemmeno mai detto nelle altre interviste, lo dico una volta per tutte, i Dioniso non è che si sono sciolti perché litigavano o hanno litigato, i Dioniso si sono sciolti perché la musica non è solo un hobby, è anche un impegno rigoroso da seguire, e quando inizi a diventare a fare musica, quando vuoi fare musica come un vero professionista, gli devi dedicare anche più tempo. Cioè hai determinate regole da seguire. E poi succede questa cosa nella vita, che dai 25 anni in poi solitamente si mettono un po' le basi del futuro, si inizia un po' meno a scherzare, diciamo. E quindi poi lo vedi chi rimane sopra, chi continua ad avere il tempo da dedicargli. Cioè va via un po', non è che va via, passa un po' in secondo piano la parte piacevole e ludica. Esatto. E inizia ad emergere la parte più impegnativa. E quindi ho scelto di continuare con chi... avesse voluto dar voce alla parte impegnativa, perché comunque la musica non è che dà solo piacere, dà anche sudore. Sì, molti non pensano, ma il discorso da sottolineare è questo, che la musica è difficile, è pesante in certi momenti. Sì, certo. Cioè, devi continuare a lavorarci. Sì, sopra. Non puoi. E infatti il vero problema del tenere insieme una band, sai, tante band a Verona mi hanno chiesto: ma come avete fatto? Verona è una bella zona, eh. Sì, eppure adesso non suona più nessuno. Come mai secondo te? Perché tutti per lo stesso problema, perché tutti a 25 anni poi si mollano, perché iniziano a lavorare seriamente, a farsi una famiglia e non hanno più tempo. E in realtà tutti mi chiedono sempre, il mio amico Gian Mario, che forse è venuto anche qua da te qualche sera, esatto. mi chiede sempre: Mattia, ma come hai fatto a tenere in piedi una band più di 10 anni? E gli dico, un po' con l'impegno e con lo spirito e quando vedi che i risultati ci sono. Però non è semplice per quel motivo, perché la gente poi crescendo ha anche altri impegni. E... Esatto, sì, è vero, crescendo ha altri impegni, però tu sei stato bravo, hai tenuto la band avanti, adesso continui un'altra, prosegui il tuo discorso, cambiato solo da facciata, come abbiamo detto, e qualche piccolo aggiustamento, ma il suono continua. Sì, sì, sì. Sì. Ho scelto la musica pop tua personale continua. Sì, allora in realtà poi c'era anche un altro fattore legato al... Avevo voglia di continuare la carriera seguendo interamente la produzione artistica, e non puoi farlo con una band, devi metterti un farlo da cantautore. Perché? Perché il mio modo di scrivere, cioè io ho questa filosofia nella vita che se un modo di scrivere deve evolversi nel tempo, e anche il mio si era evoluto, scrivevo maggiormente da cantautori, che non significa testi impegnati, testi politici, queste sono cazzate che dice la gente. Scrivere più da cantautore significa scrivere più sul personale. E quindi una scrittura di questo tipo si deve presentare ad un pubblico mettendoci anche la faccia, non puoi più mettere la faccia di una band. E quindi loro, quelli che sono rimasti di Dioniso, non sono la mia band, ma sono, io li chiamo dei collaboratori miei artistici, cioè assieme a loro valuto i miei arrangiamenti, molto spesso contribuiscono. E poi perché volevo seguire la produzione artistica. L'ho fatto con un'altra band che amo moltissimo e l'ho fatto anche sul mio disco. Perfetto, ok. Cosa dici, Sergio? Cominciamo ad aprire la finestra. Figuriamoci! Vabbè. Ah, il titolo. Ah, sì, il titolo, sì, esatto. La traccia 7 del disco, andiamo subito a sentirla. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. È un pezzo, non dico cattivo, però energetico. Sì, ha un po' di energia. È un pezzo arrabbiato, sì, da un po' che ce l'avevo in garage questo brano qua. Era pronto, e poi l'hai sviluppato, l'hai messo in musica. Sì, in realtà è stato registrato penso in 30 minuti. Ah, quindi velocissimo. Questi brani qua sì, sono molto sanguigni. Però funziona, perché il tuo regista sì, muoveva la gamba. Sergio si muoveva. Quindi funziona. Effettivamente, vuol dire che lui è la prima volta che lo sente, quindi chiaramente si è mosso subito. Quindi vuol dire che ha attaccato immediatamente. E questo è lo scopo. Pezzo che poi, tra l'altro, è brevissimo: sì, 2 minuti e 6 secondi, mi pare. Sì, è vero. È un pezzo punk, tra virgolette, praticamente. Sì. Sì, ma io in realtà non mi pongo non mi pongo degli obiettivi. Era un pezzo che avevo da un po'. In realtà qualcuno mi aveva anche un po' bocciato. Mi diceva, perché è la seconda un gran bel film. Ti ricordi il pezzo di Dioniso, certo, il singolo di debutto? Certo. Ma io dissi, sì, è vero. Però, insomma, che mi frega. È venuto così, a me piace, a me scalda e mi piace. Quindi l'idea come è partita? Velocissimamente in 30 minuti oppure sì. È un congiro di chitarra? Non so. Ma no, è partita con un riff di chitarra che mi girava in testa da un po' di parecchio tempo. Sì. E gli ho sistemato il testo e l'ho registrato ed è venuta molto bene e l'ho inserita nel disco. Batteria non mica male. Cioè, sì, sì. Si sente che si fa sentire. Si fa sentire. E prende immediatamente, muove la gente, perché 2 minuti e 6 fa muovere la gente. Sì. Non so se sia il prezzo di apertura di tuo concerti. No, in realtà no. Ma infatti non è nemmeno un singolo. E ti dico la verità, è proprio perché mi piace il vostro programma che ho scelto di darlo. Perché in realtà è un pezzo che solitamente non viene mai fatto sentire. Sai, sono quei brani inseriti nel disco che comunque... Ma sai che la caratteristica di questo programma è far sentire tutto. Esatto, è per quello che lo so che voi siete deliziosi su questo. E quindi ho scelto per quello di partire con questo. Bene, siamo partiti con questo. E tu parlavi che hai creato questo progetto lentamente ma progressivamente. Cioè non c'è stata una rottura con la band. C'è stato uno sviluppo, possiamo dire così. Uno sviluppo musicale. Sì, uno sviluppo musicale. Ne avevo bisogno... Ti ripeto, per la maturazione artistica. Però è una questione artistica, però lo sviluppo è andato avanti. Io stimo tuttora i Dioniso da morire singolarmente e anche come band. Ma anche perché in realtà le canzoni erano per la maggior parte mie, alcune di mio fratello Ricky, quindi come potrai non stimarli? Ma ti ripeto, la musica è un impegno, non tutti potevano dedicargli il giusto tempo. E io ho necessitavo che invece gli fosse dedicato il giusto tempo. E la dimensione da solista come va musicalmente? Cioè come ti sei trovato? Va bene, no, va bene. È una... In realtà mi piacciono molto le sfide ed è stata anche una maggior consapevolezza dei miei mezzi. Ok. Ma poi ho sempre amato negli studi di registrazione seguire proprio maniacalmente la produzione artistica dei brani. Ma in realtà è un lavoro che vorrò fare da grande, come si suol dire, produttore artistico. Quindi questo è l'inizio praticamente. Sì, è con chi potevo iniziare. Solo con te stesso. Infatti ho iniziato con me e come ti dicevo poi subito dopo l'ho fatto con un'altra band. Certo. Si sa che band è questa? Si chiamano Fuori Registro, li conosci? Li ho sentito nominare. Sì. Il mio manager mi ha chiesto ma mi produci il brano per loro che vogliono presentarlo in un festival? Ho detto sì. E niente, gli ho fatto la produzione artistica. Bene, si sviluppa anche un'altra professione allora. Sì, in realtà... Il mio difetto è che riesco a farlo se la musica mi piace, se no... Quindi fa una scelta in ogni caso. Sì, tanti lo fanno comunque, invece io credo che un professionista vero lo debba fare anche, cioè solo in caso ami la musica che sta facendo, se no non puoi metterci il cuore, non puoi metterci il calore. Questi 13 pezzi, perso 13, vero, del disco, sono andati tutti quanti, e dipendentemente da questo che abbiamo citato, di primo acchito avevano uno sviluppo con il tempo. Ma in realtà io ho un modo di scrivere... che non so se sia stereotipato o particolare. Io in realtà scrivo quando ho qualcosa da dire. Le canzoni vengono e non so come, ma vengono. Per me, io lo dico sempre, è un'esigenza fisica proprio, un po' troppo grande per stare in un corpo. Quando ho un'emozione grande che mastico in bocca, che è tanto grande, non riesco a trattenerla e scrivo. E solitamente scrivo in pochi minuti, perché capisco subito se funziona o non funziona. Sì, perché poi sono molto cattivo con me stesso, nel senso che se non mi... Scrivo tante canzoni che non pubblico, perché se non mi danno qualcosa, se non mi soddisfano al 110, io le lascio perdere. Ma le hai pronte nel cassetto ferme o no? O le hai dimenticate totalmente? No, però non continuo a lavorarci, perché se non mi soddisfano, non mi soddisfano. Io le scrivo, le registro, in modo, come si dice, con un rough mix, come si suol dire in termini tecnici. Spiega un momento alla gente. Brutalmente. Ecco, accendo un microfono, perfetto. Schiaccio rec. Ecco, perfetto. Voce, chitarra, annuito, voce chitarra, voce pianoforte. Le lascio lì una settimana. Le faccio maturare come il vino, le faccio decantare. Dopo una settimana le riascolto. Se mi danno ancora la stessa emozione, sono perfette. Se no vuol dire che qualcosa non va. Esatto. E leggevo sempre che questi 13 canzoni hai suonato moltissimi strumenti in questo album. Sì. Quali sono gli strumenti che hai suonato? Tutto, hai suonato una Mike Oldfield di Verona, praticamente. Ho programmato la batteria, mi sono divertito da morire, ho le chitarre, alcuni bassi, i cori, le percussioni, i synth. Bene. Poi mi sono avvalso dell'aiuto di splendidi collaboratori, del mio pianista Tommaso Franco, del mio bassista Francesco Ballarini, di mio fratello Ricchi alle chitarre, alcuni soli. In realtà, ecco, dimmi. Se dovessi tornare indietro, mi piacerebbe inserire degli ottoni da morire. Mi piacerebbe inserire degli ottoni da morire. E dal Dio li puoi fare, però, o no? Sì, sì, sì. Sì, è un po' difficile. Però nel disco, cacchio, se dovessi riaprirlo, mi piacerebbe inserire alcuni ottoni. Quindi avevi quell'idea che non essere sviluppata perché non c'è stato tempo, non c'è stata la possibilità? Oppure... No, non ne avevo il tempo. Non avevi il tempo. Non ne avevo il tempo, però mi sarebbe piaciuto da morire. Ok, sentiamo un altro pezzo. Cosa dici, Sergio? Sì, la traccia numero 3, Brucia Domenica, Muori Malinconi, eccola qui. Blu Radio Sera. Mi poi adesso devo trovarmi. Perché l'inchiostro ha dentro più tempo, parlando l'aria ti tradisce col vento. Oggi esco da me, faccio un giro e ritorno. Crepita la pioggia sull'asfalto. D'altra parte qui la gente butta per terra le stagioni che vivono dentro un giorno. Blu Radio Sera. Sempre Blu Radio Sera fino alle 22.30 qui su Blu Radio Veneto. La linea subito di nuovo a Maurizio Calzavara. Sì, parlavamo con Colore, del colore di questo pezzo effettivamente. Tu hai detto, questo è il pezzo che più mi si avvicina, mentre l'altro, la traccia numero 7, è un po' fuori dal corpo. Sì, in realtà infatti Brucia Domenica, Muori Malinconia è stato presentato anche a Sanremo di quest'anno, le selezioni, ed è stato il singolo di lancio. C'è anche un video infatti che... Girato dove? Possiamo dirlo? Allora, Brucia Domenica, Muori Malinconia l'abbiamo girato sul lago di Garda. Sì, e l'abbiamo girato sul lago di Garda con Stefano Valentino, la regia. Ad ogni modo, è il pezzo di debutto del disco. È un pezzo un po' particolare perché in realtà, per chi se ne accorge, ha due beat all'interno. Sì. Non si usa dai tempi, insomma, del progressive. Cioè, nel senso, è una cosa un po' strana da fare nel pop. Perché per me è un piccolo mio ottimo risultato, perché contiene due beat, appunto, come ti dicevo, all'interno. Un beat, cioè un tempo per la strofa e un tempo per il ritornello. Ciò è già anomalo della musica pop, riuscendo a fare una cosa melodica. E in più il ritornello ha un beat che è minore rispetto alla strofa, cosa che non viene mai fatta perché sennò il pezzo tende a sedersi. Eppure, però funziona, è bello. L'idea l'hai avuta così praticamente? Beh, l'idea di questo pezzo in realtà è nato il ritornello, poi ci ho messo la strofa, solo che la strofa era più veloce, però suonavano benissimo assieme, perché il ritornello sembrava spandere la strofa. Sì. E sì, allora allargarla, sì. Allora l'ho tenuta bene, una cosa positiva, interessante. Non è stato difficile avere l'idea di fare questo, oppure è stata una cosa tenuta immediatamente in mezz'ora, come hai detto, con la traccia numero 7? No, avevo questo ritornello da tempo e poi ci ho messo la strofa. Bene, interessante. Anche l'arrangiamento, cioè l'idea degli arrangiamenti, hai fatto tutto te praticamente. Sì, qui ho fatto anche la programmazione degli archi. Sì, su questo pezzo sì. Sì, ci sono gli archi, la melodia italiana tra virgolette, sì. Hai voluto entrare su questo campo? Ma io, come forse saprai, io sono un... ti dico, a me piace il cantautorato italiano, quello, e io dico sempre quello di classe. E cioè, cosa vuol dire quello di classe? Insomma, dai, lo sai, vuol dire Lucio Battisti, vuol dire il Dalla degli anni Ottanta, vuol dire De André, vuol dire i Guccini, vuol dire... insomma. Sì, quello abbiamo capito. Hai capito. E poi mi piace il rock inglese, che parte dai Beatles, va agli Stones, che va che ne so, agli Who, e che passa per la roba più moderna, quindi dagli Oasis ai Blur. Posso dirti una cosa? Io ho sentito il pezzo in questo momento assieme a Sergio. C'era qualcosa degli Oasis, dei Blur, sì, mischiati. Io sono nato a pane Oasis. Sei nato. E cosa ne pensi allora della divisione totale che ci sono? Che era ora. Io ho 15 anni. Io ho 15 anni che aspetto il disco solista di Noel Gallagher. Arriverà fra poco. Sì, lo so. Ho sentito il singolo. Lo tanto alla geniale. Fine cosa è cambiato? No, nulla. Ma in realtà, io dico, il fratello maggiore, insomma, ha dato quello che doveva dare. Basta. Punto. Nel senso che io ho sempre considero Noel Gallagher uno dei migliori scrittori musicali assoluto degli ultimi 20 anni musicali mondiali, ma come compositore parlo, è bravissimo. E ora che si è staccato potrà dare in realtà veramente se stesso. Secondo me quest'album qua sarà una favola. Perché l'altro lo teneva, l'altro fratello, secondo te? Sì, sono equilibri da band, anche gli altri intervenivano, mettevano canzoni, però in realtà per me lui a scrivere, cioè l'ultimo pezzo secondo me è geniale. Ma hanno pianto tanti che sono risolti. Io no, a me quando l'hanno detto sono rimasto scioccato, però subito dopo ho pensato speriamo che faccia un disco lui. Tenevi per gli Oasis o per i Blur? No, Oasis tutta la vita. Tutta la vita. Come Beatles e Rolling Stone, come Spandau Ballet e Duran Duran. Ma lì c'era più equilibrio, tra Beatles e Rolling Stone. C'è da dire una cosa, che gli Stones... che sono ancora tuttora vegeti. Sì, esattamente. Sì. E fanno ancora dischi belli. Hanno fatto il rock and roll. Esatto. I Beatles hanno fatto la storia della melodia. I Blur forse erano leggermente più... ma il leader non è mica una persona molto intelligente. Sì, erano più coraggiosi degli Oasis, però gli Oasis ci sapeva fare di più con le canzoni probabilmente. Erano molto beatlesiano gli Oasis, assolutamente beatlesiano. Sì, infatti più concentrati sulla composizione. Certo. Tu che eri, per gli Oasis o per i Blur? Senso? Ma un po' di più forse per i Blur. Ah, per i Blur. No, più che altro mi dispiace che siano un po'... siano persi alla fine. Anche a me dispiace se si sono sciolti gli Oasis, nonostante tutto, nonostante coloro o alias Mattia... Non sei proprio d'accordo. Va bene, è giusto che... No, mi dispiace, ho dei bellissimi ricordi legati agli Oasis, però sono contento che Noel Gallagher faccia un discorso faccia solista. Sì, adesso vediamo. Qualcuno ha detto che faceva un... Tu hai sentito il singolo. Qualcuno ha sparato che faceva un disco di folk. È vero oppure no, secondo te? No, dicono che sia molto psichedelico come disco. Bene, interessante allora. Sì, estremamente interessante. Ok, sentiamo un altro pezzo, dai, cosa dici? Sì, dal disco del nostro ospite, Sei meglio tu di un eroe. Blu Radio Sera. Da quanto tempo sei lì a riattaccare i fili tra il tuo cuore ed il tempo, tuoi fanti e tuoi re, ne vorrei molto di più. Speculare a te, che sei meglio di un eroe, perché sbagli. Coincidenze, case, cose, pancia piene. Non importa se tu che ascolti in fondo non senti. Siedi ed apri quegli occhi chiari, che luce passi il tuo cuore. Taci e siediti lì, senti che odore la vita. Coincidenze, case, cose, pancia piene. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, 21:39 minuti, ancora Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto. Sei meglio tu di un eroe, era la canzone che abbiamo sentito del nostro ospite Colore, Maurizio. Sì, Colore. Verso la fine hai fatto un determinato sviluppo armonico, perché? A me interessa il perché del finale, che sì, è sempre diverso, carino, spesso carino, è molto carino, sì. Spesso a volte cambi nei finali, sì, come sì. Mai? È una tua caratteristica? Ma no, in realtà sai, dicono che la struttura canzone perfetta sia quella che ha la strofa, il ponte e il ritornello. Però mi piace a volte inserire delle varianti, è una cosa molto moderna, si usa molto, sì, molto moderna, presa dagli anni 60. Certo, ecco. Certo. Però è una cosa che sì, mi piace fare. E difatti. Ma io amo molto questo pezzo qua. Se meglio tu di un eroe, credo sia uno dei miei pezzi più belli. Almeno io ne sono molto legato, perché. Ma anche per il testo. Per me. C'è molta intensità, c'è molto pathos in questo. Sì, se meglio tu di un eroe. Non è dedicato ad una donna o ad una persona in particolare, come molti potrebbero pensare. Se meglio tu di un eroe è dedicata a tutte. A noi. Cioè, perché credo che per vivere adesso occorra veramente essere meglio di eroi. Perché. Il fatto di continuare nonostante tutto, ad avere speranza, a tirare avanti, cioè per me quegli eroi lì ed eroine lì sono le mamme, i papà, la gente che lavora, che studia, la gente che ci spera ancora, la gente che tira avanti nonostante le difficoltà. È quella cosa lì, quel coraggio lì, quel coraggio, quella luce lì che in molti hanno e sono veramente degli eroi, però vivono magari in anonimato e quelle persone che ti capita di parlarci 5 minuti e che però ti stupiscono per coraggio che hanno. Questo è un pezzo molto interessante. Dal vivo come lo fai questo pezzo? con la band sicuramente, sì, con sì. Che sviluppo armonico, con potenza, con una certa predisposizione vocale. Ma è un brano, ecco, è il brano con il quale Colore apre i concerti. Quindi non è un brano semplice, secondo No, me. È vero, non è un brano semplice, infatti quelli della band me lo dicono sempre che sbaglio, però in realtà... Perché te lo dicono sempre che sbaglio? No, che sbaglio iniziare con questo perché è più complicato, soprattutto per il suono, perché sì. Solitamente quando si inizia un concerto, coloro che sono la regia tecnica, si tende sempre a iniziare con un pezzo dai suoni facili, di modo che il tecnico possa farsi affinare l'orecchio e sistemare i volumi. Questo è un pezzo che invece i volumi devono essere già pronti. Ah, ho capito. Quindi me la rischio. Però è un pezzo al quale sono molto legato. Iniziare un concerto con questo brano è... No, mi dà quella giusta energia per poter iniziare un concerto. Bene, è una scelta praticamente. Coraggiosa a me, una scelta. Sì, è vero. E dal punto di vista della scaletta, quando l'hai creato questo pezzo? Dal punto di vista temporale. Sei mezzo di un eroe, sai che non ricordo. L'ho scritto al pianoforte in taverna da me, ma penso. Cosa c'hai a casa? Quanti strumenti c'hai a casa? Beh, molti. Ho un basso, due o tre chitarre. Che ho un pianoforte e poi cosa? Vabbè, poi un piccolo studio praticamente. Diamonica. Sì, mi sono fatto un piccolo studio. Adesso a proposito di questo, parliamo del discorso degli studi, perché al microfono spento io e il nostro artista Colore. ci siamo parlati delle famose etichette discografiche, questa è una cosa molto interessante. Che non servono a niente. Esatto, le sviluppiamo questi discorsi, tanto siamo in diretta, sono 21:42. Sì, ma io non ho paura a dirlo, io dico le cose come penso. Ho rifiutato, qui c'è un'etichetta in ogni caso. Sì, io ho rifiutato contratti discografici, ho preso fregature da contratti discografici. Attualmente nel mercato discografico i dischi non vengono venduti perché nel sapere comune, è brutto che io lo dica, ma è così. Per la gente, per i miei amici, per tutti ormai, avere musica e film è una cosa che aspetta quasi di diritto gratuitamente, perché c'è sulla rete. Certo. Quindi la gente ormai si chiede, ma perché devo comprarlo? Cioè, lo scarico e basta. Sì, lo scarico. Lo comprano perché sono un emergente, allora sì, però un big, o sei... La gente attualmente compra o il disco dell'artista affezionato, che lo vuole originale, ma se no il resto... Ha questa idea che è un diritto averla gratuitamente e a mio avviso bisogna ripensarla questa cosa, perché è vero, la musica su internet bisogna ripensare al modo di venderla. Tutti gli artisti big, come ti dicevo prima, microfoni spenti, attualmente hanno la propria casa discografica, si producono i propri dischi che danno ad un distributore che li porta in giro per l'Italia e ad un promotore che li promuove nelle radio. Attualmente funziona così. Case discografiche che non investono in artisti emergenti, che si affidano solo a talent show perché risparmiano in promozione. Hanno rovinato tutto i talent show. Esatto. A cosa serve una casa discografica? Una volta le case discografiche tiravano fuori dei grandissimi talenti e se non li mettevano in prima fila, ovvero a fare i cantanti, facevano come hanno fatto con Lucio Battista, li mettevano a fare gli autori. Esatto. L'ho fatto anche Tenco e altra gente. Sì, ma era giusto, era il giusto divenire delle cose, c'era un percorso, iniziavi come autore, funzionavi bene e poi andavi avanti, ma funziona così, cioè dovrebbe funzionare così nella vita per tutti, dovrebbero darti la tua possibilità, la possibilità di giocare però non è più così, le case discografiche non ascoltano, ma lo sappiamo cioè noi artisti emergenti lo sappiamo che non ascoltano, lo sappiamo benissimo. Sono andato in tante big, in tante major, non ti ascoltano, ti ascoltano se hai soldi da spendere. Ah, ho capito, se hai un budget dietro. Sì, è brutto, ma è così, ma non è che sono arrabbiato. No, è la verità. Sono consapevole, cioè un artista attualmente, al giorno d'oggi, che non è consapevole di questa cosa, vive nel mondo delle big bubble. Allora si autoproduce. Ma tra di noi lo sappiamo, cioè io mi sento quotidianamente con altri artisti del panorama italiano, del mio livello, che ci sentiamo, sai, ci ascoltiamo i dischi a vicenda, mi chiamano, addirittura ora sto scrivendo dei brani per una band molto famosa qui del nord Italia, anche loro hanno le stesse difficoltà, le stesse mie problematiche, certo. Cioè, ne parliamo quotidianamente. Quindi è un circolo chiuso, non c'è niente. E se i dischi non si vendono, quanto durano ancora queste etichette? Queste, no, infatti, ma stanno tutte chiudendo, stanno tutte tagliando il personale, ma in realtà Google sta facendo questa cosa di reinventare, lo stanno facendo anche prendendo dalla SIAE, va ripensato tutto il mondo della musica, partendo dalla SIAE soprattutto, vero? Che è una cosa che non... è ferma a delle leggi degli anni 60, proprio alle balere, cioè... Se tu pensi a cosa, come vengono distribuiti i proventi della SIAE, ti viene da ridere. Cioè, nel senso... va tutto ripensato, ma purtroppo noi, io e gli artisti miei coetanei stiamo vivendo il cambiamento, ma io non credo che manchi molto. Attualmente in America la vendita della musica online sta andando, ormai ha sorpassato quella tradizionale. Pensa che leggevo su Sole 24 Ore dell'altro giorno, una settimana scorsa mi pare, che il 2010 ha un calo tremendo di vendita di biglietti di concerti e chiedevano sul sito, ma come mai secondo voi? Io dico, ma sapete quanto costa andare a un concerto? Questo è anche vero. Io che sono un artista, nel senso che faccio musica, non perché sia bravo, scelgo i concerti da andare a vedere, ma non perché mi mancano i soldi, ma perché è un po' una cosa filosofica, no? Magari di pensiero, c'è quell'artista che ti garba, però al quale non vuoi dare 40 euro, perché magari non ti piace per 40 euro, ti piace per 20, no, ma hai capito? Sì, sì, ho capito. Perché non è, io amo una band, pagherei anche 200 Tot. Euro per il concerto, non mi importa nulla. Però c'è anche quel ragazzo giovane o quella cosa che dici, ma sì, ci andrei a vederlo. Però poi ti chiedono tanti soldi per un luogo in realtà che non è adatto ad un live, allora la gente comincia a scegliere, cioè dice, certo, vado da lui, non vado dall'altro. Comincia a selezionare, è vero questo? Ed è un male, insomma, la musica va un po' ripensata. Interessante questa disquisizione, cosa dici? Molto, molto, molto. Andiamo a sentire qualcos'altro, certo, dal disco di Colore, si intitola Secondo me, della traccia numero 5. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora insieme a Colore, ospite dei nostri studi, Maurizio. Sì, questo è il secondo singolo, Colore, secondo me. E anche qui c'è un finale sempre diverso e c'è poco da fare. Io ho notato, non li ho sentiti tutti, ma ne abbiamo sentiti abbastanza adesso. Ogni pezzo ha un finale diverso, è un finale che va lontano dalla linea melodica che avevi proposto prima. No, aspetta, secondo me, leggermente, dai, facciamo leggermente, non rispetto agli altri, leggermente, sì, qualcosa di diverso c'è anche questo, è una cosa positiva, è un creare sempre qualcosa all'interno del pezzo. Ma penso che tu ormai abbia capito, a me piacciono molto i brani che danno spazio, che danno aria, che danno... Beh, questo dava molto aria, dava molto spazio, sì, possiamo dire, era una melodia ampia, proprio ampia. Sì, sì, ma come ti ripeto, per me la sfida melodica è proprio un motivo di vita, perché per me è un brano quando ha qualcosa di veramente particolare. Fin quando non ce l'ha, io non riesco a accontentarmi, ed è un mio sfigato difetto. Cioè praticamente sei un perfezionista. Sì, perché voglio sempre ottenere di più e stupire anche un po' me stesso, però non è sempre così facile. E allora succede questa brutta malattia che quando ti capitano i brani un po' meno potenti ti sembra di averne scritto uno più brutto, insomma non è facile. Tu fai il direttore artistico di te stesso, ma è un raffronto con qualcuno in questo momento? Sì, no, in realtà c'è a dire una cosa, che non è che ho iniziato così, io ho imparato ho lavorato con tre diversi produttori artistici, uno qui di Vicenza, uno di Verona. E da loro ho imparato e mi sono segnato. Incuriosito. Sì. E da ognuno di loro ho imparato qualcosa di particolare. Da chi sapere, insomma, da ognuno, io osservavo molto. Cioè, io ero uno di quelli che quando facevamo i dischi anche dei Dioniso, rimanevo in studio anche durante ogni singolo parte del mix, ma proprio perché mi piaceva guardare. Che volevi captare tutto praticamente. Ma perché credo che se tu conosci i mezzi per poter creare, diventi anche ai maggiori colori, certo, da poter utilizzare, insomma. È proprio una cosa, non è così buttata, è una cosa giusta, che c'è un collegamento, c'è un filo conduttore, secondo me. Velluto, hai spiegato bene perché il titolo di Velluto, adesso lo spieghiamo assieme ai nostri ascoltatori. Sì, perché come ho detto in varie interviste, Velluto è un po' la parte, un po', se mi immagino l'interno del cuore, me lo immagino fatto di velluto, allora... Pensavo che se questi brani potessero mettersi dentro al cuore, potevano sdraiarsi su questa parte di velluto, ecco, tutto qua. Questo è il motivo del titolo praticamente. E anche la confezione del disco è fatta molto bene, hai fatto tutto te, il cosiddetto... Che io ho progettato sì, la grafica, poi... E la grafica è importante, fondamentale, sì. Perché io sono sempre convinto, gli artisti emergenti vanno... Cioè, mirano a una grafica perfetta, a un bel libretto del disco, ben fatto, ben costruito. Sì, ho scelto i materiali che tra l'altro qui sono accoppiati. Abbiamo stampato su un materiale un po' particolare che poi è stato accoppiato. E... Le fotografie sono di Stefano Valentino, nei boschi della Lessinia, dalle mie parti. La stampa è stata fatta da un caro amico, dalle grafiche di Lasi. E nulla, c'è un po' quello che mi piace a me, la natura. Volevo essere in mezzo alla natura, delle foto semplici, le abbiamo decise. Ci siamo sentiti il mattino, andiamo al pomeriggio su a fotografare, senza tanti... E via. Siamo andati. È andata bene. L'etichetta la citiamo, l'etichetta? Sì, beh, il signor Maurizio Marangoni di MCS Music Publishing, anche loro di Vicenza. E poi volevo, se me lo permetti, ringraziare il Conte Sigurtà e la famiglia intera, che sono i proprietari del Parco Giardino Sigurtà di Verona, nel quale abbiamo girato il clip di questo brano che hai sentito. C'è anche l'attore comico qua. Sì, e c'è anche Andrea Catavolo, un altro caro fans ed amico. L'idea di girarlo là, in questo parco meraviglioso. Ma ti dico la verità, ripadisco, mi piace la natura, si è capito. Esatto, sì. Mi piace la natura da morire. E, volevo girare il clip in questo parco. Sì. Quindi chiedo all'ufficio stampa del parco di poter registrare un clip. Mi chiedono che cos'è, che cosa bisogna seguire, un iter burocratico. Sicché mando il brano, mando il curriculum. E mi chiama la segretaria e mi dice: guarda, il conte ha sentito il brano, se n'è innamorato e miracolosamente non vuole una lira, vieni, mi dite quanti siamo e girate il clip. Sei fatto fortuna. Ma in realtà sì, in questo parco in realtà girano grosse star, cioè ti faccio un esempio, convivendo con Antonacci e e quella bella ragazza modella, la Canali, sì, si è girato lì, ma moltissimi sono girati a Parco Sicurtà. Io non ho pagato. No, ma è stato gentile perché ha visto che è una sorta emergente. Sono stupito che si debba pagare da un lato. Sì, sì, chiedono l'affitto. Fanno grosse cose. Ma lei è una roba stupenda, è curatissimo, vero? Per quello anche. Cioè, no, ma in realtà non è che non ci ha chiesto l'affitto perché... Non ci ha chiesto l'affitto perché ha visto che che sono un artista emergente. Gli è piaciuto il progetto, ha detto, bello che tu abbia scelto il parco. Io glielo pubblicizzo, lui pubblicizza il brano, ho detto guarda, io se vuoi usarlo anche come sigla, usalo. Va benissimo. Ok, sono le 21:57, ce la fai? Facciamo un pezzo, Colore, cosa dici? Dal vivo, a tuo piacimento. Adesso prendere la chitarra, chiaramente, e col capotasto, che pensavo di aver dimenticato, ma ecco là, sopra. Beh, vuoi mandare un brano? Sì, facciamo un pezzo. Poi sì, mi accordo la chitarra. Perfetto, che pezzo mettiamo, Sergio, adesso? Sai che ho perso? È la lista. No, devo contare. No, la traccia numero 9, che dovrebbe essere Tamerai. Perfetto, ok. Vado errato, sempre con noi, nei nostri studi, c'è la musica di Colore. Che poi, tra l'altro, anche il tuo sito, se non sbaglio, lamusicadicolore.it. Sì. Vabbè. 21:57, Blu Radio Veneto, siete all'interno di Blu Radio Sera. Vuoi già suonare? No, oppure... scusami, vai, no, vai. Tranquillo, ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci sono due cose che non riesco a fare, amare e perdonarti sempre. Ogni volta che non speri, volta che tu non ti credi, ci sono due cose che non riesco a prendere per caso o per dispetto. Ogni volta che piove bianco, ogni notte che passo in bianco, beh, anche La traccia numero 9 del disco di colore si intitola Tamerei. Tamerei, eccola qua, sì. Maurizio. Dobbiamo sottolineare una cosa, che fratello di Mattia Ricchi ha fatto un assolo di chitarra verso la fine, vero? Sì, sì, sì, il solo che senti dello strumentale che c'è. Dopo ogni ritornello, sì, sì, è di Ricchi. Bene. E infatti in questa canzone, guarda. Dimmi. Sì, sì, sì, c'è Ricchi e c'è anche Francesco che suona il basso. Quindi l'idea, cioè, Ricchi è un chitarrista fondamentalmente. Sì, mio fratello è un ottimo chitarrista, ma in realtà è un ottimo chitarrista perché, come ti spiego, gli strumentisti si dividono. Mm. Ci sono quelli bravi con la matematica, ovvero quelli bravi a fare gli esercizi sulla chitarra, gli smanettoni. Ci sono quelli che hanno gusto. Quelli che hanno gusto sono rarissimi. Ho capito. Su ogni strumento. Ecco, quelli che piacciono a me, strumentisti, sono quelli che hanno gusto. Ricchi ha molto gusto, ma anche Francesco e anche Tommaso hanno molto gusto. Cioè, i musicisti che scelgo io hanno tutto molto gusto. Io lascio stare la tecnica. Molte volte si presentano dei tecnicisti, dei mostri. Sì, ma non te ne fai nulla di un tecnicista. Non manca, serve. Manca di corpo, di anima. Soprattutto se fai pop rock, un tecnicista non serve a niente. Se suoni Dream Theater, probabilmente sì, ma se no, no. E questa tua dichiarazione me l'ha detto un altro tempo fa. Un musicista è venuto qua e ha detto: quello hai detto a te praticamente. Se uno è un tecnicista, si trovava in difficoltà a fare pop. Allora, è rarissimo trovare una persona che suona da Dio e da gusto. Per me Ringo Starr non era un tecnicista, ma è il miglior batterista del mondo. Ma sai perché? Dimmi. Perché la fantasia che ha Ringo Starr, ancora adesso non c'era nessun batterista. Suo figlio l'ho sentito suonare con gli Who, fenomenale, in arena, una roba spettacolare, Zach Starkey. Ringo Starr aveva una fantasia in quei fil di batteria, che i fil sono le rullate, no? Semplice quello di Ringo. Sì, ho capito. Non andava mai oltre. Sì, un tecnicista non anche, allora c'erano i tecnicisti, sì, ma c'era una fantasia allora. I Led Zeppelin, i riff di chitarra. Tecnici Bonzo. Sì, bravi sì, ma una fantasia totale. Cioè, anche Bonzo aveva una grande fantasia. Sì, cioè sì, è quella cosa lì che cambia nella musica. Non è la tecnica. La tecnica. Il mondo è pieno di maestri di chitarra, ma è povero di gente che scrive ottimi riff. Satisfaction. È una stupidaggine, ma tu trovalo un Keith Richards. Appunto. Ok, cosa suoniamo colore allora? Vi faccio sentire Temporale. Benissimo. È da molto che rigiri giorni viola con patè, mi daresti la fiducia se investissi su di me. È da molto che ti guardo mentre pianto fiori che spunteranno come raggi sul tuo cuore fertile. E intanto tu sei il temporale, fai bene come il male, che più bene non ce n'è. Tu sei il temporale, fai male come il bene, che più bene. È da molto che non mangi un po' di quello che sei, perché non ti porti fuori sotto quel ciliegio che è così pieno dei tuoi sogni, che è sempre in fiore, è così denso di vecchiaia che assomiglia alla premura. È da molto che ti guardo mentre pianto fiori che spunteranno come raggi sul mio cuore fertile. E intanto tu sei il temporale, fai bene come il male, che più bene non ce n'è. Tu sei il temporale, fai male come il bene, che è più bene. È da molto che sei meno di quello che sei, resilienza strana la tua di chi non ci prova mai. È da molto che non scegli di essere finalmente tu. Perfetto. Questa è una ballata cantautorale al 100%, col come si dice, il segmento pop allargato, ma un po' piacevole, fatto bene, secondo me, accattivante al 100%. Grazie. Dici? Ti ringrazio. No, sono d'accordo. Bene, a me fa piacere, anche a Sergio, chiaramente. Io mi ricordavo il discorso che avevi fatto prima con i live che hai visto gli U con il Zach figlio di Ringo alla batteria. Allora mi aggancio a questo per domandarti i dischi da portare su un'isola deserta, i tuoi dischi preferiti da portare su un'isola deserta. E dopo mi parli un secondo, però due minuti, mi parli un momento di quella dello spettacolo You che hai visto, se ti ricordi qualcosa. Sì, ti faccio subito quello degli You perché dura un secondo. Gli You purtroppo non hanno finito il concerto perché al cantante mancò la voce a metà concerto. E cantò comunque chitarrista il resto del concerto, quindi grande prova di valore. Esattamente. Tra l'altro. Beh, comunque bel live. A parte questo, i dischi. I dischi a quali sono legato io da morire, io vado a periodi, mi piace moltissimo, vabbè, What's the Story, Morning Glory, Oasis, un disco di Battisti, un disco di De André. Non scegli il periodo, a caso. Come faccio a dirtelo? Va un po' anche in base ai giorni miei. Ci sono i giorni che preferisco il primo Battisti e altri il secondo. Ma il Battisti con Mogol o senza Mogol? No, io preferisco il Battisti con Mogol. Perché era un po' il Beatles italiano, era il Paul McCartney italiano, secondo me. Beh, era molto avanti, come tu giustamente hai detto. Sì, anche lui ha creato delle scene musicali. Ma anche, anche con Panella l'ha fatto. Sì, poi, anche con Panella, sì. Però lo sai che lui apposta si è dimenticato della melodia, disintegrava le canzoni perché odiava che la gente le cantasse. Vabbè, però lì sono periodi di un artista, insomma, sono come i periodi di Picasso, voglio dire. Ad ogni modo, ti dico un disco di Battisti. Sì. Amore non amore, mi piace moltissimo. Quello non è mica un disco semplice. No, assolutamente. È un disco molto raffinato, con delle ricerche. Ecco, ti dico, vedi, stasera torna in autostrada, ascolterai quello. Ok. Magari domani metterai sue emozioni in spiaggia, però stasera ascolterai quello. Perfetto. Poi mi piace moltissimo De André. Ho dei brani di De André che amo moltissimo, come Santa Lucia, come Aite, sempre per sempre. Ma poi mi piace anche alcune vecchie cose, cioè cose di Celentano vecchie mi fanno impazzire, tipo Un bimbo sul leone, queste cose qua mi fanno morire. Poi cosa mi piace? Beh, il White Album dei Beatles, sicuramente. Vedi caso c'è la maglietta scritto dei Beatles. Sì, sì. Il White Album dei Beatles, poi cos'altro? Ma tanti artisti. A proposito di White Album dei Beatles, proprio l'altro giorno è uscito Rolling Stones, il mensile, dove c'erano 525 canzoni scelte dagli artisti famosi. E Ozzy Osbourne ha scelto totalmente il White Album dei Beatles. Sì, anch'io lo adoro. Tutto quanto ha scelto. È tutto il mio album preferito dei Beatles. No, è bellissimo quell'album lì. E poi seguito anche da Yellow Submarine e da Sgt. Pepper. Però il White Album, a mio avviso, è bello, ma soprattutto perché credo che per un cultore di musica sia un album interessante, perché come sai lì stavano già litigando, quindi facevano le cose separatamente. Sì, è vero, certo. E si vede, e si sente, vedi le cose di Paul McCartney, certo, le cose di John Lennon. Sì. È bello anche per quello, perché senti un po' più la differenza. Se invece ho voglia di ascoltarmi i Beatles e il sound dei Beatles, ascolto Sgt. Pepper's oppure Yellow Submarine, che è un altro album che a me piace moltissimo. Al di là della canzone che era più piccolina dell'album, però il resto dell'album ci sono i c'aveva un piccolo spazio anche Ringo, figamente. Sì, esatto. Solito non c'ha mai spazio. E poi chi altro dimentico? Vediamo. L'italiano hai scelto De André, hai scelto Einaudi, un album di Einaudi. Come mai? Grandissimo, sì. Pianista Einaudi. Oh, io l'ho visto a Valeggio sul Mincio, una località in provincia di Verona, sul lago di Garda. Sul sedere del lago di Garda, dove inizia proprio il Mincio. A Borghetto, a Leggio sul Micio, ha suonato in piazza con il temporale. Oh, volevo morire. No, lui, ecco, tornando al discorso di prima, tra i tecnicisti, Einaudi potrebbe fare il tecnicista, ma certo, non fa il tecnicista. Suona il pianoforte come potrebbe suonare con il mio pianista, Tommaso, litighiamo spesso in merito. Lui è più bollaniano, presente Stefano Bollani, sì, certo, che invece fa il tecnicista, anche se comunque ci mette una buona dose di cuore. Però Einaudi sottrae, non addiziona. Quello che mi piace di Einaudi è questa, una capacità melodica e di sintesi totale. Einaudi è un bravissimo compositore. E di prendere la gente. Ma sì, poi ha un'eleganza nello scrivere. Io guardo quello. Io te lo dico per l'ennesima volta. Io guardo la composizione, io guardo la sostanza. Per me non guardo se è bello, gli arrangiamenti, io guardo la sostanza. Se uno sa scrivere musica e se scrive musica che mi sposta. Quello che ti dà, sì. Esatto. Einaudi è uno che mi sposta. Cioè, proprio bravo. Prima hai citato Satisfaction e che ti dice ha spostato da sempre, esatto, tutti. Esatto. Bastava un riff semplice, leggero, però esatto. Pezzo epocale. Sentiamo un altro pezzo dal disco tuo, colore, cosa abbiamo scelto? Se solamente, se non sbaglio. La traccia numero 4, esatto, se perfetto. Solamente. Blu Radio Sera. Autunno cadrà in città, su te che siedi sulle stagioni e quella sedia con due ruote come farfalle. Ricorda ed immagina che tutto ciò che puoi, se solamente tu, se solamente io, se solamente inverni durassero a metà, se solamente la città fosse più simpatica, mi siederei accanto ad ogni tuo consiglio per capirlo meglio, l'amore che ci metti. Lava tempo la valle mia, priorità d'uomo è, ed ego di plastica. Quanto tempo non facciamo niente per gli altri, mi commuove l'illogica certezza dei sogni che puoi, se solamente tu, se solamente io, se solamente inverni durassero a metà, se solamente la città fosse più simpatica, mi siederei accanto ad ogni tuo consiglio per capirlo meglio, l'amore che ci metti. Da quel letto d'ospedale ti libererei, campagne, salici, fiori e cieli, che sia, se solamente tu, se solamente io, se solamente inverni durassero a metà, se solamente la città fosse più simpatica, mi siederei accanto ad ogni tuo consiglio per capirlo meglio, l'amore che ci metti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ultimo quarto d'ora insieme a Colore all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto. Maurizio. Sì, questa è una storia molto interessante di questo pezzo. Adesso Colore ce la racconta, perché questo pezzo era arrivato a Sanremo nelle selezioni, vero Colore? Pezzo sì. Che parte e si ferma spesso musicalmente. Esattamente, sì. Mi piace perché cogliete le differenze. dopo tante puntate di Rock Wave o di qualcosa mi ha insegnato. dimmi Colore. Sì. Ma questo brano si è arrivato tra i 30 finalisti di Sanremo di 2 anni fa, l'anno in cui non mi ricordo chi vinse, a dire la verità. È quello dei laghi, c'era anche il principe, sì, c'era anche il principe, no? Due anni fa. Esattamente. Dove c'era il principe, sì, esattamente. Sì, sì. È arrivato ai 30 finalisti di Sanremo, sono andato a Roma nelle sedi Rai, con tanto che sembra di andare in questura, metà detetro. E nulla, sono andato, eravamo in 30, c'eravamo io, c'era quei poi sei che avete visto, tra i quali c'era, tra gli emergenti c'era Nina Zizi, sì. E poi altri che, sono, che sono spariti. Sì, sono spariti. E poi chi c'era? C'era un ragazzo della Maionchi. Beh, insomma, sono arrivato, ho fatto la tua esibizione. Audizione in half playback, cioè la voce dal vivo su base. E ricordo che ricevetti i complimenti del direttore d'orchestra di Sanremo di quell'anno, Bruno Sartori, e anche di Antonella Clerici, che mi chiese se il pezzo fosse mio. Io dissi sì, certo. E quindi andai uscì un po', come ti raccontavo prima, abbastanza euforico. Dissi, boia, qui è fatta. È fatta. Cioè, però ho detto, Mattia, contieniti. In realtà poi ti danno la risposta dopo una settimana e l'esito fu negativo. E basta, cosa devo dirti? Tanto saremo ciò che al di là, non mi va di far polemiche, però la cosa che mi dispiace veramente è che è un palco che una volta ha dato luce a gente come Modugno, che io stimo alla follia, gente come Battisti, cioè passavano i veri talenti. Adesso invece Sanremo è diventata il modo per le etichette di buttare lì degli artistini o ricchi oppure che sono in dovere, devono metterceli, e poi in realtà non hanno futuro. Che senso ha mettere un artista lì che poi la gente non coglie o non apprezza? Non serve a niente, cioè. Ma anche a loro stessi, perché sì, non frutta soldi. Perché che senso ha buttare un artista che poi non vende, non funziona? Cioè, c'è qualcosa che non va, no? Vuol dire che... Sì, questo hai perfettamente ragione. Io ricordo però un caso, ce ne sono stati. Prima i Negramaro, che erano stati buttati fuori subito, poi sono diventati i Negramaro. Sì, piano. Parlo di artisti che mettono etichette. Quello che fa Caterina lo fa pensandolo. Ho capito, sì. Caterina è brava. Ma infatti Caterina viene anche dalla musica. Certo, certo, certo. È capace di fare il suo lavoro. Anche quest'anno quel Rafael è bravissimo, sì, un talento. Cioè, mancava un artista nel jazz anni 50 così, che a lui piace molto, che poi non è jazz. Vabbè. È un po' di tutto, dai. Sì, sì, sì. Richiama. Sì, richiama il jazz. Però serviva in Italia, vedi, ci mancava una roba del genere. Mm. Perché in realtà serviva. Lei l'ha piazzato e ha fatto benissimo. Cioè, tra quelli di quest'anno, tra gli emergenti di quest'anno, sinceramente, lo dico proprio a cuore aperto. Se non vinceva lui, chi c'era? Ma chi c'era? Cioè, lui è bravissimo. In realtà era troppo facile il gioco per lui. Certo, aveva dietro la casa lì, chiaramente. Sì, non aveva nessuno contro cui combattere, più che altro. Chiaro. Ma al di là di quello che voglio dirti, che mi dispiace, è che non sento, non che ci voglia andare io, non perché manco io, ma anche da ascoltatore, da fruitore di Sanremo, mi piacerebbe scoprire dei nuovi e veri talenti. Guarda che comunque Negramaro, sono di... Negramaro, Tiziano Ferro sono gli ultimi artisti emergenti italiani nati e rimasti. Sì, sì, capito. Anche Elisa. E poi manca, da lì in poi c'è stato veramente un po'. E le cosiddette band indie, il tentativo di After House l'anno scorso, quest'anno c'è stato La Cruz. Riveduto e corretto, c'erano Giovanardi. La Cruz è dovuto imporre il nome. No, lui è bravo, lui piace. Lui è bravissimo. Però non era tra gli emergenti, sì, non era, però non era conosciuto dal grande pubblico. La Cruz. Ah sì, forse sì, hai ragione. Sì, sì, è vero. Dai musicisti lo sì, lo musicisti, sì, certo. Da noi, no, no, da noi. Ma io, lui è sempre stato bravo. E... Sì, è bravissimo. Il pezzo, ripeto, come anche a me piaceva moltissimo. Spento era un pezzo meraviglioso. Sì, poi mi piaceva moltissimo perché aveva questo stampo anni 60 che io amo. Sì, sì, perfetto il pezzo. Però il tentativo di per esempio, 2 anni fa sono andati After Hour con un pezzo difficilissimo, però è stato un tentativo. C'è qualcosa. Sai, poi ti dico la verità a bocca aperta. Sanremo è promozione gratuita, fa gola a tutti. È chiaro. Nessuno direbbe di no. Mm. Anche chi dice non andrei mai a Sanremo. Se ti dice che non andrebbe mai a Sanremo è perché è una balla. È perché non ne ha bisogno. Ecco, appunto. Ma chiunque andrebbe a Sanremo. Hai una settimana, hai tutte le radio, tutte è promozione che per farla uguale devi pagare un sacco di soldi a dei promotori. Certo. In quel modo ce l'hai gratuita, chi è che non la usa? Però gli emergenti vanno alle 2 di notte, caro colore, è quello il discorso. E vabbè, però per fortuna o purtroppo c'è Sanremo. Sì, questo fine, siamo d'accordo. No, no, ma io sono... Qualcosa muove. Io sono felice, qualcosa muove, certo. Mi dispiace solo che non prendano, di non sentire dei veri... Ma perché anche i big, se stai vedendo un po', ormai lo snobbano. Ma perché? Perché vedono che la qualità si abbassa e conta più il contorno. E per quello è brutto che anche i big dico di no, una volta c'era gente come Modugno, cacchio, che andava a Sanremo. Certo, cioè certo, Modugno certo. È uno che, ragazzi, è uno dei migliori cantatori d'Italia, ma mondiali, non solo italiani. Sono uno d'accordo. Che è l'unico che è andato in America e ha fatto le classifiche americane. Ma sapeva non scrivere di più Modugno, cioè uno che è partito dal profondo sud, vero, con la chitarrina, parliamo... Cioè, certamente questo. Però quest'anno c'è stato Morandi qualcosa ha smosso, sì, sì. Tanto Vecchioni, eccetera, qualcosina è un po' diverso, però è stato un caso. Vecchioni mi è apparso un po' ovvio. Sì, parlavamo con Colore molto prima. Tra l'altro che rimanga tra noi e i nostri ascoltatori, io conosco benissimo la direzione artistica, cioè di quest'anno e di questi ultimi 3 anni, vero? Ci ho lavorato assieme, li conosco benissimo, cioè Gianmarco, mio caro amico Mazzi, è di Verona. È di Verona, da parentesi. Mio carissimo amico. Però come vedete le amicizie non bastano. No, comunque una brava persona, una persona molto competente a livello musicale, una persona che che se ne intende. A lui piace il mio progetto, me l'ha sempre detto. Chissà, però, magari un giorno servirà anche questa amicizia. Ma c'è un altro Sanremo fra poco, no? Sì, sì, però... Non si sa chi sarà presentato, ma questo vuol dire niente, assolutamente. No, comunque è un ottimo professionista Gianmarco, uno che ci sa fare. Però sai, a volte non basta la direzione artistica, perché se gli artisti ti dicono di no, e comunque diciamo un'altra vera verità, che anche la direzione artistica molte volte ha le mani legate dalle etichette, sempre queste famose... sì, le major. È vero, sai. E metti questo, dire... e metti quello, e metti quell'altro, gli spazi si riducono e devi decidere in pochi posti per tanti artisti, insomma. Sì, purtroppo è così. Ok, sentiamo un altro pezzo e poi concludiamo con un pezzo live. Sì, quale? Abbiamo finito tutto. Bene. Ti faccio dire una bella cosa. Oh, bravissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La traccia 8. La 8, la 8, la 8, la 8. Andiamo a sentirla subito. Ok. A mezzanotte dicono che sia sempre un po' magica quest'ora buona di giornata, che se ti cade giù, lei sa come sei obiettivamente. Tu piangi, ma per metà, si vuole solo per metà, e per metà, sei genio e metà povere, e per metà, mi basterebbe la metà di quello che mi invento, e poi non scrivo in niente, ma che ti darei di più? Prenditi, amore mio, un'ora solamente tua, perdi qua solo noi, nudi come corpi caldi, dentro ad ore tutte nuove, siamo nuovi, con le dita strappinotti come carta. A mezzanotte 10 ho deciso che mi sognerò Parigi che come un lenzuolo mi coprirà. Tu soffia, spegni tutto ciò che non ha luce ma ci guarda. Ma per metà, si vuole solo per metà, e per metà, sei genio e metà polvere, e per metà, mi basterebbe la metà di quello che mi invento, e poi non scrivo in niente, ma che ti darei di più? Prenditi, amore mio, un'ora solamente tua, perdi qua solo noi, nudi come corpi caldi, dentro ad ore tutte nuove, siamo nuovi, con le mani strappinotti come carta. Una pelle d'oca. È un pezzo molto potente, sì, sì. Accattivante, allo stesso tempo quasi con una voce cattiva, cattiva, proprio senza peli sulla lingua. È una crudité di canzone. È una crudité. Come si usava una volta. Piano e voce. Sergio, possiamo mettere la traccia numero 12, c'è il fratello di Ricky, mi pare giusto farlo sentire. Che la suona. Mettiamo subito, andiamo subito. Mettiamo subito, okay, sì. Ok, poi magari andremo anche con i saluti. Certo. Personalmente la felicità è come un albero da frutto, lui non sa quante stagioni per la primavera, quel sole caldo, fuoco dopo la bufera. Quel giorno che ti ho detto andiamo, hai temuto cadesse il mondo, e invece guarda dove ti ho portata, e dove il mondo è già caduto. Semplicità. senza tempo per aspettare. Cosa vuole il destino la mattina a queste ore? Se l'erba del vicino è sempre la più bella, e chi mi abita di fronte è un ladro o un assassino. Quel giorno che ti ho detto andiamo, chissà, hai temuto cadesse il mondo, e invece guarda dove ti ho portata. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo quasi in chiusura, Maurizio, dell'appuntamento con Colore. Sì, questo era un pezzo scritto da tuo fratello Ricky. Ricky, esattamente. Semplice e avida. Pezzo molto interessante, anche aveva un finale. Io mi è venuto in mente schiaffi adesso, di pianoforte, io sentivo. Quasi impressionista, sì, il piano, sì, finale. Che bella questa definizione. Me la devo scrivere. Mi è venuto in mente in questo secondo. Te la devo rubare. Piano impressioni, qualche secondo quasi impressionista. Un pianoforte impressioni, ma deve essere il titolo di una prossima canzone. Sappi che, perfetto, quando presenterò il prossimo album, se un titolo avrà questo, sarà tua. Bene, io ti ringrazio di essere venuto, no, qua. Sono io che stasera ringrazio, che nonostante voi non sei stato fisicamente a posto, però sei stato bravo lo stesso. Sei venuto a fare un giretto qui dal Lago di Garta. Non è un percorso breve, però è stato un giretto. Dai, sei venuto, no, grazie ragazzi, grazie a voi, grazie a te e a Sergio. Bene, io sono molto contento. Cosa finiamo con un pezzo? Vuoi risentire un altro pezzo da studio? Ce la fai? Allora, mi interessava dirvi la musica di colore.it. Maurizio, lì potete vedere tutto. Sì, beh, dovevo chiedere questo. Su iTunes trovate tutti i brani di Velluto e trovate anche i precedenti. C'è un EP anche precedente che gira. Il disco lo potete comprare dal sito di Colore, che vi rimanda al sito della casa discografica, vi arriva direttamente a casa, oppure anche nei negozi del Triveneto, però se siete di altre zone vi consiglio di andare sul sito dell'etichetta. E poi cos'altro? Comunque affidarvi a iTunes, che è il modo più sicuro e legale per acquistare musica. Giusto. E poi ai concerti, soprattutto avere fisicamente, sì, il disco. Ai concerti. Stiamo facendo un tributo a Lucio Battisti interessante a settembre a Verona. Bene. Comunque ecco, ora non c'è la data precisa, te la comunicherò. Beh, se tu sei battistiano, quindi l'hai detto già in trasmissione. Mi hanno chiesto, vieni a fare un tributo. Ma in realtà, pensa che tempo addietro giravo con un mio tributo, non come Colore. Giravo con un mio tributo a Battisti acustico, pianoforte e voce. Bello, interessante. Pianoforte, voce, chitarra acustica, bello, era bello, mi divertivo da morire. Anche perché, guarda che Battisti in realtà sembra semplice a suonare dal vivo, ma è di un complicato che tu non hai idea. È difficile perché guarda che tanti cambi tempo, moltissimi strumenti, gli arrangiamenti sono veramente stratificati. Farlo con due strumenti, sì, vabbè, Fai Acquazzurra, Acqua Chiara e La Canzone del Sole con la chitarra, ma le altre non le fai con la chitarra acustica, cioè, nel senso, non le fai. Sono stratificati gli arrangiamenti, è molto, molto complicato. Poi vado ad andare a Pietruccio quando suonava con lui, di quanto difficoltà aveva quando suonavano con Battisti. Io ho avuto vado ad andare a Pietruccio. Ho avuto anche il piacere di suonare per la Formula 3, di aprire il concerto della Formula 3, che loro hanno fatto la tournée di certo. Battisti. Con Radius, grandissimo musicista. Immenso Radius. C'è una canzone sua, Che cosa sei, da solista, dovete sentirla. Ve la consiglio vivamente. Che cosa sei, Alberto Radius, una roba da pelle d'oca. Fantastico Radius, un chitarrista. Forse più bravo dopo Iva Graziani, che se n'è andato purtroppo. Ascoltami, io ti dico, per salutarvi, per ringraziarvi, non ho il pianoforte con me, però mi piacerebbe farvi ascoltare l'ultimo brano del disco, che dura poco e, bene. E a mio avviso vi potrebbe dare una ottima buonanotte. Grazie. Ok, domani ci sentiamo un'altra volta, non con te, ma con Michele Tosò in regia. Avremo la piccola bottega Baltasar con disco nuovo, Radici, una raccolta di pezzi italiani e in italiano e in veneto. Molto interessante. Che buono, bello. Buono. Salutatemi. Certamente. Ciao a tutti, buona serata e alla prossima. Suonassero vento e foglie batteri e grilli come viole, un cielo per orchestra, il mare di rettore vestito di nero, la notte spettatrice elegante e fervida. Se capissi che, se capissi che tu sei metà di me. Io ti ricomincerei.